Provisto ognuno si balle de o si cante da chi li sammus da tua casia. Boi bom, tutte smale. Boi bim bom, bom bom, e ne ma. Bom bim bom, bim bom, bim bom, bom bom bom. Ma non mai. Boi bim bom, bom bom. Cavida e bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom cavi dominas tutto e non li schisavamma che l'azzutto. Ferra, si su che lupi in terra, la via non serra, tu puro la vera, poi la vera in terra, tu puro la serra, la vera, poi si su che lupi in terra, la via non serra, tu puro la vera, poi la vera serra, poi la vera serra, Malavera nel barra do buro, nel barra da samba,